English Bit di Giulia Crivelli. IPO. Goldman embraces diversity with IPO Wow, but overlooks problem area Asia. Uno degli articoli sulla prima pagina di venerdì 24 gennaio di Financial Times aveva questo titolo, che possiamo tradurre così: Goldman sposa la diversità con il suo impegno per la IPO, ma sorvola sul problema rappresentato dall'Asia. La prima parola che ci interessa è IPO, acronimo vero offerta pubblica di acquisto, equivalente di debutto in borsa. Quotarsi, infatti, in inglese si dice to go public. La decisione alla quale si riferisce il quotidiano londinese è stata annunciata al World Economic Forum di Davos dal CEO della banca d'affari Goldman Sachs. Non affiancare più, in qualità di advisor, aziende che vogliono quotarsi se non hanno il giusto grado di diversità e inclusività all'interno dei rispettivi board, cioè consigli di amministrazione. IPO è una parola talmente breve e semplice che si usa sempre più spesso anche in Italia. IPO Wow significa, come abbiamo detto, impegno sui criteri di scelta che Goldman applicherà. Ma Wow vuol dire anche promessa o voto. To break your marriage vows significa venire meno alle promesse che ci si fa durante la cerimonia di matrimonio. Nuns take a vow of chastity, le suore fanno voto di castità. C'è anche il verbo to wow, regolare, wow, wowed, wowed. She wowed never to speak to him again. Giurò che non gli avrebbe mai più parlato. They wowed eternal friendship. Si promisero a vicenda di restare amici per sempre. Tornando al titolo di Financial Times, è interessante il verbo to overlook, regolare anch'esso, to overlook, overlooked, overlooked. He seems to have overlooked an important fact. Mi sembra che abbia ignorato un fatto importante. We could not afford to overlook such a crucial number. Non possiamo permetterci di ignorare un dato così cruciale. In senso letterale si può dire a restaurant overlooking the lake, un ristorante che si affaccia sul lago. Ci sono molti altri verbi che usano la preposizione over. To overlap significa sovrapporsi. To overeat significa mangiare troppo. To overdress significa vestirsi in modo esagerato, sproporzionato a una certa occasione. To overcome significa superare, cioè letteralmente passare sopra un ostacolo. The two parties managed to overcome their differences. I due partiti riuscirono a superare le loro differenze.